Radio 24 e Fondazione Sigma Tau presentano Medius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza, con Federico Pedrocchi. E buonasera a tutti, non da Federico Pedrocchi ma da Chiara Albicocco, e benvenuti a tutti a Mebius, ma Federico Pedrocchi è in collegamento con noi da Washington. Federico, ci sei? Ciao Chiara, sono anche qui con Paola Rebusco. Paola Rebusco, la nostra inviata che di solito sentiamo su Skype da Boston. Ora i titoli della puntata e poi torno da voi. Scienza e Islam, traffico e multilinguismo nei neonati, ma anche insegnare all'università essendo transessuale. Sono alcuni dei temi di cui si è parlato al meeting dell'Associazione Americana per l'Avanzamento delle Scienze, appena conclusosi a Washington. Ci saranno le elezioni anticipate? Non possiamo certo saperlo, ma c'è chi dice che sarebbe meglio che ogni elettore votasse per due partiti. Il giallo di Van Gogh. Se fosse un libro noir, si potrebbe intitolare così. Alcuni quadri del celebre pittore stanno progressivamente perdendo la brillantezza. Che cosa si può fare? Come vi ho detto in apertura, siamo in collegamento con Washington, con Federico e Paola. Che cosa state combinando lì, Federico? Allora, qui, come forse avete già sentito dai titoli, c'è l'Assemblea annuale dell'Associazione Americana delle Scienze, che è un appuntamento nel quale si traccia lo stato dell'arte e della ricerca in moltissimi campi della scienza, ed è anche, questo è bene segnalare, un appuntamento nel quale convergono ricercatori e ricercatrici da tutti i paesi, quindi non solo dagli Stati Uniti. Ecco, detto questo, possiamo iniziare proponendovi alcuni primi argomenti che sono stati trattati nei seminari, e di altri argomenti parleremo nelle prossime puntate. Ti va bene, Chiara, se iniziamo sì, da come i bambini succhiano il ciucciotto? In relazione alla lingua che gli si parla intorno. Allora, cominciamo da qui, però ti passo Paola. D'accordo, Paola, raccontami tutto. Allora, eccomi. Essere bilingui influisce sullo sviluppo della struttura del cervello. Questa non è una novità, ma gli impatti sono più profondi di quanto non si ritenesse in passato. Infatti il bilinguismo semplifica non solo l'apprendimento di altre lingue, ma migliora anche l'abilità di svolgere più compiti in contemporanea e lo sviluppo delle capacità cognitive. Non è finita qua. Infatti i benefici non si limitano all'infanzia, ma accompagnano i bilingui per tutta la vita, rallentando l'avanzamento dell'Alzheimer rispetto agli adulti monolingui. Interessante. Tu ti domanderai quando inizia però questo bilinguismo. Janet Werker e Nurian Sebastian Galles dell'Università della British Columbia in Canada e dell'Università di Barcelona in Spagna hanno presentato risultati ottenuti studiando dei bambini appena nati. Addirittura, da lì inizia. Sì, poche ore di vita. Infatti il gruppo ha confrontato la reazione a linguaggi diversi tra bambini che sono stati esposti a una oppure a due lingue durante la gestazione. A poche ore dalla nascita, i bebè esposti a due lingue, mentre sono ancora nella pancia della mamma, riconoscono se stanno ascoltando lingue diverse. Addirittura. Sì, è interessante però come fanno a fare queste misure, come si misura la comprensione linguistica di un bebè. Ecco, spiegaci Paola. E Werker e Sebastian Galles hanno misurato la frequenza con la quale un neonato succhia il ciuccio. I neonati monolingui ciucciano alla stessa frequenza se stanno ascoltando lingue diverse, mentre i bilingui ciucciano più rapidamente e intensamente quando riconoscono che la seconda lingua che hanno ascoltato è quella che sentivano nell'utero materno. Divertente, carina questa. Sì, incredibile. Ti ripasso Federico, che ti racconta altro. Va bene, grazie. Sì, Federico, lì deve essere un tour de force di appuntamenti. Tieni presente che ce ne saranno circa 500, quindi è veramente una grande kermesse scientifica. E adesso io ti parlo del paradosso di Braes, Dietrich Braes, matematico tedesco, studioso delle reti in generale. Internet è una rete, ma anche la rete stradale, no? Per esempio, e di quest'ultima lui si è interessato qualche decina di anni fa. Il fatto singolare è che ciò a cui si riferisce questo paradosso accade ancora oggi. In breve, se si fa una strada nuova per diminuire il traffico in una certa area territoriale, può accadere esattamente l'opposto di ciò che si spera, cioè un grande continuo ingorgo su quell'arteria, la strada nuova. È vero. Sì, il paradosso appunto è questo. Non accade però per tutte le configurazioni delle reti stradali, questo va detto. Tipicamente si manifesta questo paradosso quando ci sono, mettiamo, due possibili alternative di percorso e la strada nuova ne propone una terza. Anna Negroni dell'Università del Massachusetts ha raccontato di questo paradosso. Io le ho chiesto, va bene, ci sarà traffico per un po', poi la gente non si accorge del problema e passa a un comportamento più intelligente. Ecco, sentiamo la sua risposta. People learn over time and they adjust and you have like dynamical systems underlying these kinds of. Lei qui dice che sì, la gente può adattarsi in generale, come avviene sempre nei sistemi dinamici nei quali le cose cambiano in continuazione, però non è sempre così ed è per questo che continuano ancora a verificarsi situazioni nella quale il paradosso di Bryce si manifesta. E qui io gli ho chiesto, ma scusi, in questi casi allora è meglio chiudere la strada nuova? E lei ha risposto così. Yes, exactly. It's better to close the road. Capisci? Non ci facciamo una bella figura come specie, no? Cosa dici? Direi di no. Il seminario era dedicato all'uso della matematica per analizzare quelle situazioni nelle quali si hanno grandi concentrazioni di individui, pesci, volatili, noi umani, comprese appunto le automobili che ormai sono delle nostre protesi. Non poteva mancare un resoconto sulle ultime ricerche in merito alle grandi concentrazioni di folla e ai gravi disastri ai quali abbiamo assistito di recente, l'ultimo quello di Duisburg in Germania. Ecco. Sì. Il dato significativo in questi comportamenti collettivi è che c'è una soglia oltre la quale la folla perde completamente la caratteristica di un insieme di persone e si comporta, e questa è proprio la matematica che lo dimostra, si comporta come se fosse un fluido. Della cosa in generale ne parleremo in una prossima trasmissione, però qui mi sembra interessante segnalare un dato. Al di sotto delle 5 persone per metro quadro, che sono già non poche se ci pensiamo, però le cose rimangono gestibili. Se si passa a 7 persone per metro quadro la situazione diventa critica, a 9 per metro quadro si è in pieno discontrollo e la tragedia è praticamente assicurata, cioè non c'è possibilità di ritorno a una densità inferiore. Questi sono i dati che vengono fuori da queste ricerche. Però con questi calcoli in qualche modo si potrebbe arginare il problema, no? Riuscire a capire prima la quantità di persone, ecco, che ci stanno in un determinato luogo. La tua reazione, il tuo commento è giusto. In realtà quello che viene fuori è che se diventiamo un fluido assemblato in questo modo, il controllo diventa praticamente impossibile. Quindi proprio bisogna agire a monte, bisogna riuscire ad evitare le concentrazioni che sono già quelle di 5 persone per metro quadro. Non è facile, ne parleremo senz'altro nelle prossime puntate. Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. Torniamo a collegarci con Washington e con Federico dall'Assemblea annuale dell'Associazione Americana delle Scienze. Federico, ci siete? Paola Rebusco? Siamo qua. Ok, andiamo avanti. D'altro. Sì, andiamo avanti nella carrellata. Esatto. E introduciamo un tema che qui è stato discusso in due appuntamenti, quello del rapporto fra scienza e Islam. Te ne parla prima Paola. Sì. Eccoci. In realtà parliamo anche di esopianeti, ovvero dei pianeti che orbitano intorno ad altre stelle. Con la scoperta ormai di più di 500 esopianeti che sono confermati e più di 1200 candidati esopianeti che sono da confermare, la possibilità di trovare forme di vita su altri pianeti nei prossimi decenni è sempre più concreta. Allora ci domandiamo quale sarebbe l'impatto sull'umanità a livello culturale, filosofico e teologico. E allora ho chiesto a Nidal Ghesson, professore di fisica all'American University di Sharjah, negli Emirati Arabi Uniti, è autore di un libro che si intitola Islam's Quantum Question, riconciliare la tradizione musulmana e la scienza moderna. E gli ho chiesto quale sarebbe la reazione del mondo islamico, perché lui è venuto qui a Washington a parlare di questo. Sentiamo cosa dice. We find that the Quran is very open. Ghesson ritiene che i musulmani siano preparati più di noi ad accogliere la notizia di forme di vita su un altro pianeta, in quanto il Corano non solo è molto aperto a questa possibilità, ma alcune parti del Corano accennano esplicitamente all'esistenza di più terre e di forme di vita extraterrestre. La presenza di vita invece sarebbe un po' più controversa e di difficile interpretazione. Infatti, da un lato, il Corano sembra indicare la centralità della nostra civiltà e dell'umanità. Dall'altro, fa riferimento a una creazione infinita, ovvero a infinite possibilità che potrebbero includere anche altre civiltà sviluppate. Detto questo, teologi e filosofi possono risolvere la questione senza fretta. Se infatti si scoprissero segni di vita su un esopianeta, non si saprebbe se questi segni di vita fossero dovuti a forme di vita intelligente oppure a organismi più elementari per parecchio tempo. Ecco, qui si apre un ventaglio di scenari molto affascinante. Assolutamente. Io invece vi parlo brevemente di un altro seminario, questo completamente dedicato allo sviluppo del pensiero scientifico nei paesi di cultura islamica. Ne hanno parlato scienziati arabi, medici, biologici, fisici, e quello che è emerso è il ruolo molto importante che una diffusione delle conoscenze scientifiche e tecnologiche possono avere come fattore di cambiamento positivo dei problemi che ci sono in questi paesi. Diciamo che insomma la situazione della cultura scientifica, soprattutto degli enti che erogano informazione e comunicazione scientifica, è molto critica. Pensate che l'Egitto, che certamente è uno dei paesi arabi insomma più potenti, più grossi, in Egitto non c'è un planetario e gli arabi hanno inventato l'astronomia. Tutti i relatori hanno fatto riferimento alla situazione attuale, ovviamente di queste settimane, con gli avvenimenti in Egitto, Tunisia, Libia. Hanno anche sottolineato come quel discorso di Obama all'Università del Cairo all'inizio del suo mandato, quello volto ad aprire una nuova modalità di confronto con la cultura islamica, bene, quel discorso è stato un messaggio, secondo loro, raccolto dalle fasce più colte e giovanili e ha lavorato in profondità, diventando senz'altro uno dei fattori trainanti di quanto ora sta accadendo. Il pensiero scientifico e la cultura tecnologica in particolare possono diventare uno strumento di grande significato. Il motivo è semplice, hanno spiegato questi scienziati dei paesi arabi, dicendo: da noi esiste una situazione congelata dagli scontri religiosi e la capacità della scienza sia di guardare alla realtà concreta delle cose che di introdurre cambiamenti tangibili, di procedere per esperimenti e verifiche, ebbene questo è un fattore culturale molto diverso e di importanza storica. Speriamo lo capiscano tutti, soprattutto in questi periodi di forte crisi. Naturalmente loro dicono che questo è un momento in cui noi, Europa soprattutto, dobbiamo assolutamente farci sentire, essere presenti, perché è in atto questa trasformazione culturale. Parliamo sempre, continuiamo a parlare di cultura in un modo molto diverso. Negli Stati Uniti la cultura della diversità, della sua accettazione, è senz'altro qualche robusto passo avanti rispetto a quella che conosciamo nel nostro paese. Ciò significa che in ogni importante campus universitario qui in America sono presenti associazioni per i diritti degli omosessuali, gay, lesbiche e transessuali, presenti con loro attività e sedi. Ecco, ciò non toglie però che qualche problema esista, certamente, soprattutto quando questa diversità si esprime non nel territorio delle arti, dove è da tempo molto più consueta, ma in quello delle scienze. Sentiamo adesso che cosa ha raccontato al pubblico in sala Key Johnson, docente di analisi matematica transessuale. Nella sua registrazione sentirete che fa spesso riferimento alla associazione. Si tratta appunto di un'organizzazione che riunisce gli universitari, docenti, ricercatori, studenti omosessuali e transessuali. Sentiamo Key Johnson. What's it like to be out on campus? Well, it depends, I think, where you are. I wound up at Purdue University. Penso che dipenda dal luogo. Io sono capitata alla Purdue University e una delle ragioni per cui sono entrata nelle associazioni dei gay, lesbiche e transessuali è stata una ragione di sopravvivenza. Il mese prossimo, in occasione della giornata dell'orgoglio omosessuale, parlerò alla Michigan University, dove celebrano il 40° anniversario del Centro Spectrum, che dicono sia il più vecchio centro per lesbiche, gay, bisessuali e transessuali presso un'università negli Stati Uniti. Ovviamente tutto dipende dall'università in cui ti trovi. Dove mi trovavo, la situazione non era buona. Ero uno studente di dottorato in ingegneria aeronautica e insegnavo matematica ai primi anni. E alcuni membri del dipartimento di matematica hanno pensato di istituire una specie di codice per l'abbigliamento, così da limitare il modo in cui mi vestivo. Loro non avevano un codice. Invece io ero quella vestita meglio. Il mio capo non ha permesso che ciò accadesse e ha fatto notare che il modo in cui si veste non ha nulla a che vedere con il modo in cui insegna matematica. Così disse. Inoltre, nella mia esperienza, gli studenti erano più ricettivi con me. Essere un insegnante transessuale è risultato positivo. Perché insegnavo analisi matematica, ma non a studenti di matematica. Insegnavo a studenti di economia, biologia, gente che doveva imparare la matematica a un buon livello, anche se non volevano. Una delle difficoltà quando si insegnano questo tipo di corsi è far partecipare gli studenti, perché hanno paura di dire cose stupide. Ma io ho usato la mia diversità come strumento per assicurare che non ci sarebbero state forme di discriminazione in classe. E avevo anche notato che molti studenti erano non bianchi e non maschi. Ho visto sguardi di sollievo quando l'ho detto. Inoltre gli alunni si sentivano liberi di intervenire in classe, liberi di poter dire anche qualcosa di stupido. E non era la fine del mondo. È stato davvero positivo. Alla fine il mio corso è andato meglio di tutti gli altri nel dipartimento. Gli studenti venivano da me ed erano grati per quello che stavo facendo. Ho scoperto che essere apertamente transessuale, essere visibile, soprattutto in campo scientifico, ha un effetto polarizzante durante i meeting. Alcune persone vengono da me e mi adorano come una specie di supereroe. Altre mi sono avverse e non mi vogliono vicino a loro o ad altre persone che conoscono. Per me non nascondere la mia transessualità è una questione di sopravvivenza e ritengo che fosse necessario e penso di aver fatto bene. Dichiararsi apertamente omosessuali, bisessuali o trans in campo umanistico o in altre discipline è normale, ma in campo scientifico, anche in istituti progressisti, non è così. Adesso sono a Bloomington, Indiana, e l'Università dell'Indiana ha una sede dell'associazione da 20 anni. Ed è ritenuto un istituto a favore dei gay, ma nonostante ciò nell'area delle scienze le persone non si dichiarano apertamente. Sia a Purdue che all'Indiana University non riusciamo a trovare membri della facoltà, in campo scientifico, che si dichiarino sul lavoro. Sono certamente dichiarati al di fuori, il venerdì sera, ma non dal lunedì a venerdì. Un'altra cosa molto importante è che abbiamo notato che studenti, soprattutto studenti di dottorato degli ultimi anni di facoltà, che iniziano a cercare lavoro, non se la sentono dire che fanno parte dell'associazione, anche se sono out, si sono dichiarati nella vita di tutti i giorni, perché è la prima volta che cercano lavoro. Si domandano cosa faccio e tornano nell'armadio, tornano a nascondersi. Si domandano anche cosa faccio se poi ottengo il lavoro, se non ho detto niente a nessuno? E io dico loro che se mettono il nome dell'associazione nel loro curriculum, questo vuol dire che sono membri di una società professionale. Non è come dire faccio parte di un gruppo gay. Sei parte di una società di scienziati di professione e lo puoi scrivere sul curriculum. Ecco cosa avevo da comunicarvi oggi. E adesso vi dico, se qualcuno è o è stato in un'università che potrebbe avere un gruppo di studenti da far entrare nell'associazione, ditemelo, perché è parte di quello che faccio io. Cerchiamo di creare gruppi di studenti. È da lì che tutto inizia. Ed è lì che si trova il nostro futuro. Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. Federico, tu da Washington ci sei sempre? Sono sempre qua. Ecco, allora stai lì perché adesso ti dico la domanda del nostro quiz. Lo fai tu, magari posso provare a indovinare anch'io. La domanda di oggi è la seguente. Quali di queste tecnologie è stata recentemente brevettata, ma anche prodotta in Italia? Risposta numero 1. Un ombrello elettromagnetico che tiene lontani i fulmini. Ci scriverete ombrello. Una resina ecologica estratta dal guscio di anacardo da usare come isolante per l'edilizia. Ci scriverete anacardo. Risposta numero 3. Un olio di semi di ciliegia che si scioglie in acqua per la cura della sinusite. Ci scriverete ciliegia. Il libro che regaliamo questa settimana a chi più velocemente invia l'SMS al numero 349-2386-666 è L'energia del vuoto di Bruno Arpaia, edizioni Guanda. In collaborazione con IBS.it. Federico, hai ascoltato la domanda? Sì, adesso sto cercando di orientarmi, poi telefono. Sì, manda un sms se dovessi avere un'idea della risposta. Sì, intendo quello, certo, l'sms, certo. Ecco Federico, questa è una puntata un po' speciale. Ci siamo collegati da Washington con te e Paola, ma ora vorrei farti una piccola sorpresa. Vorrei collegarmi ancora più lontano, vorrei collegarmi con lo spazio, che ne dici? Oh, perfetto, ancora più lontano, molto più lontano allora. Addirittura con la Stazione Spaziale Internazionale e con il nostro Paolo Nespoli. Ma la sorpresa è questa, che non sarò io e non sarai tu a collegarti, ma saranno i ragazzi dell'Istituto Comprensivo Statale di Villa Santa, che è un piccolo paese in provincia di Monza e Brianza, in Lombardia. Ecco, ci siamo Federico, la NASA, aspetta, sta chiedendo la linea. Space Station, and as soon as I make an active contact, good evening Paola, I have students. From Italy, Federico, ascolta, ora i ragazzi iniziano a fare le domande al nostro Paolo Nespoli. Abbiamo assistito al suo lancio da Verano Brianza. Per noi i momenti emozionanti sono stati il lift-off e il suo saluto con la mano. Per lei qual è stato? Over. Beh, ci sono stati momenti emozionanti un po' dappertutto, il momento in cui siamo partiti per andare verso il razzo, quando ci siamo fermati in questa fermata tradizionale, quando siamo entrati dentro il veicolo, ma sicuramente il momento in cui siamo arrivati in orbita è stato il momento culminante di questa inizio avventura. Over. Sono Chiara, quali sono gli esperimenti più recenti che ha svolto? Over. Ma Chiara, abbiamo fatto degli esperimenti, per esempio uno che guarda un pochettino il comportamento del cervello in orbita una volta che ci si deve adattare all'assenza di peso, ma giusto ieri per esempio ho lavorato su un'apparecchiatura americana che controlla la combustione dei solidi. Over. Sono Federico, sappiamo che stai eseguendo esperimenti sul suo cervello, di cosa si tratta? Over. Sì, Federico, noi arriviamo nello spazio e ci troviamo in una situazione diversa e quindi il cervello si deve abituare, adattare a questa situazione. Vengono gli studiosi, controllano come il nostro cervello si abitua e cercano di imparare a capire di più di questo organo in modo da poterlo utilizzare sulla Terra nelle cose di tutti i giorni. Over. Sono Ilaria. Qual è stata la cosa più bella che ha visto nello spazio? Over. Ma la stazione è sicuramente una vista molto bella, una volta che ci si avvicina alla stazione vederla lì è sicuramente una vista strana e bella, ma sì, la cosa più bella in assoluto è sicuramente la Terra. Over. Sono Manuel, sapendo che lei galleggia sulla IS, qual è la posizione in cui dorme? Over. Ma la posizione in cui dormo è così, sono in una specie di sacco pelo con i piedi, con la parte inferiore del sacco pelo legato sul pavimento, il resto volteggio in giro. Mi sembra di essere un pochettino dappertutto. Over. Sono Luca, come ci si sente a volteggiare nell'aria senza gravità? Over. Ma Luca, a dire la verità io mi sento come un bambino, come uno che deve scoprire un pochettino tutto, e all'inizio era tutta una scoperta interessante e esilarante. Over. Sono Nicola, trova difficile compiere i gesti e le azioni della vita quotidiana nello spazio? Over. Ma Nicola, no, è facile, l'unica cosa è che bisogna ricordarsi di essere in assenza di peso, quindi dimenticarsi di fare le cose come si vorrebbero fare se fossimo sulla Terra, ma una volta che riesci a sganciarti da questa cosa viene tutto più facile. Over. Sono Stefania, come risolvete il problema dei rifiuti organici e inorganici prodotti sulla IS? Over. Ma Stefania, sostanzialmente incapsuliamo tutti questi rifiuti, cioè li mettiamo in contenitori e poi questi vengono messi sulle navicelle di rifornimento e vengono distrutti rientrando sulla Terra. Over. Sono Alice, l'addestramento lo ha condotto un po' in tutto il mondo e lontano da casa. Quanto è importante per lei il supporto della sua famiglia? Over. Alice, il supporto alla famiglia è sicuramente importantissimo perché ti permette di lavorare in serenità e quindi niente, per me è stato molto importante e devo dire che sia mia moglie che mia figlia mi supportano nel lavoro che faccio. Over. Sono Davide, quando lei cambia i suoi indumenti li deve lavare? Over. E Davide, no, non possiamo lavare le cose qua sopra e abbiamo anche difficoltà a lavarci noi stessi, quindi gli indumenti vengono cambiati e vengono buttati. Over. La ringrazio tantissimo, sono emozionata più dei ragazzi della mia scuola, sono la preside di questa scuola, grazie per la testimonianza a 360 gradi che ci ha dato, in bocca al lupo per la sua missione. Adesso il saluto per lei da parte dei ragazzi. Un abbraccio. thank you, Paola. You are just on the horizon now, and the students wish to thank you all, and I do too, for a very exciting evening. Thank you. E ora dallo spazio torniamo giù, torniamo a Milano e torniamo qui in studio. Infatti questo audio ci è stato inviato, in realtà non è in presa diretta, ma ci è stato inviato dal professore Luca Montani dell'istituto che avete sentito di Villa Santa e fa parte di una serie di iniziative del progetto Spazio allo Spazio in collaborazione con l'Agenzia Spaziale Europea. Federico, tu da Washington ci sei ancora? Sono sempre qua, adesso tornerò lì fra un po' perché devo parlare con Maurizio. Maurizio Melis, d'accordo. Si avvicinano le elezioni. Direi che è molto probabile. Molto probabile, vabbè. Allora io dico, si avvicinano le elezioni e Maurizio Melis, ciao, che è qui con me. Ciao Federico. Ci propone di votare per due partiti. Come se non bastasse votare per uno. Ebbene, quindi potremmo averne 49 alla fine. Ma in realtà non sono io a proporlo, sì, ma uno schieramento trasversale ai vari partiti italiani. Quindi in questo momento PDL, PD, c'è anche, se non sbaglio, SEL che è favorevole, il centro è abbastanza favorevole ad uno schema di legge elettorale molto molto originale che prevede di dare due voti e non uno. Allora è per questo che noi ne parliamo dentro una trasmissione di scienza, perché c'è un problema di tipo, c'è un'opportunità di tipo statistico matematico che però si riflette su un possibile sistema elettorale che, a quanto pare, dando al cittadino la possibilità di votare due partiti, sarebbe più efficiente. Sarebbe anche più giusto. È questo. Insomma, noi continuiamo a parlare di sistemi elettorali come se la scelta fosse solo legata, come dire, ai vantaggi o svantaggi che possono avere varie formazioni a seconda del sistema che si sceglie. Ma invece ci sono dei sistemi oggettivamente che funzionano meglio, proprio da un punto di vista matematico e statistico, e altri che funzionano peggio. Le, come dire, caratteristiche che deve avere un sistema elettorale ideale sono state identificate da un certo Arrow, uno studioso ormai molti anni fa, che ha preso anche il Nobel per questo, e si è dimostrato che non esiste un sistema elettorale perfetto, però ci si può avvicinare. E da qui questa proposta. Perché dico che bisogna votare per due? Perché in pratica ci si troverebbe di fronte a una scheda elettorale doppia, ripetuta due volte sostanzialmente. Si dà un primo voto, sì, normalmente, e poi si può dare un secondo voto. È una seconda preferenza. Sì. Che funzione ha questa seconda preferenza? Cosa ne viene fuori? Ecco, che cosa succede? Succede che, ammettiamo di avere quattro, parliamo di un sistema uninominale, quindi ammettiamo di avere quattro candidati nella nostra circoscrizione. Vabbè. Nessuno di questi prende il 50% come primo voto. Si prende l'ultimo classificato, si guarda i secondi voti di quelli che hanno votato costui come prima scelta e si vede a chi sono stati dati e vengono redistribuiti sugli altri tre candidati. Okay. Se qualcuno ha raggiunto il 50%, questo ha vinto il seggio, altrimenti si ripete l'operazione. In pratica è un ballottaggio istantaneo. Cioè, nel primo turno, in un turno unico, si esprimendo la prima e la seconda preferenza, si ha una sorta di ballottaggio istantaneo, e questo è già conveniente dal punto di vista economico. Scusa, questo rappresenta un sistema con un grado di perfezione maggiore, perché c'è una prima espressione di gradevolezza da parte che dei votanti. Che sarà proprio una, quella più diretta. Esatto. Però in fondo io tengo anche conto della seconda preferenza, e questo vuol dire che il valore della rappresentatività del candidato è più curato. Insomma, è più curato preciso. E soprattutto il valore, come dire, del voto di chi dà il voto. Certo. Perché oggi se in un uninominale tu dai il voto a qualcuno che non viene eletto, quel voto è praticamente buttato. Certo. Ora, soprattutto chi vota partiti minori ha la quasi certezza di buttare via il voto, cioè dà un voto politico ma che di fatto non si traduce in niente. Invece in questo modo il primo voto sarà politico e il secondo sarà tattico. Certo. Ti faccio un esempio che è interessante fuori da, diciamo, la questione italiana, perché il problema si pone dappertutto. Per esempio le elezioni americane che furono vinte da Bush contro Gore. Ah, quelle per 1000 voti. Esatto, furono vinte, ma il 2,5% dei voti furono presi da Nader, che era un estremista, sì, diciamo, di sinistra. Comunque era la sinistra radicale in America. È chiaro che l'elettore di Nader, tra Bush e Gore, preferiva Gore. Evidente, certo. Ma non poteva esprimere questa sua preferenza. Questo 2,5% di voti ha fatto vincere Bush. Certo. Ora, il problema si può girare a destra o a sinistra, non è importante. Il fatto è che i partiti, chi esprime un voto per un partito minoritario in un sistema uninominale rischia di buttarlo via. Sì. Al contrario, invece, se si applica questo metodo, dando la possibilità della seconda scelta, il risultato è che vince il partito che è in grado di attirare più prime e seconde scelte. Quindi questo già fa calare la conflittualità, perché tu devi andare in cerca anche delle seconde scelte di coloro che votano altri partiti, quindi non puoi sparare addosso a un altro partito se vuoi che il suo elettore come secondo devono confrontarsi di più. Ci sono tanti motivi per cui questo sistema potrebbe funzionare. Ecco, però scusa, un'ultima, perché ascoltandoti non ho avuto tempo di riflettere abbastanza, ma su quel benedetto problema che abbiamo noi, che è la governabilità, in fondo questo come può creare più problemi o no? In fondo no, io direi anzi che è più stabile tutto il sistema. Certo, perché comunque il sistema uninominale blocca su un modello di tipo bipolare il sistema, ma diventa un bipolarismo meno conflittuale. E qui insomma, in fondo adesso arrivati alla fine è statisticamente evidente. È statisticamente evidente, si può proprio dimostrare, ci sono dei principi, qui non c'è tempo di discuterne, ma ci sono proprio dei principi matematici alla base di questo, di questo ragionamento. Poi questo tipo di ricerche, questo tipo di tesi nascono da gente che poi con i computer simula 100 elezioni diverse. Simula 100 elezioni diverse. Tra le tante simulazioni, tra l'altro, hanno fatto i conti di che cosa succede col Porcellum. Questo è un dato molto interessante. Il nostro Porcellum. Dei ricercatori italiani, esperti di sistemi caotici, hanno fatto uno studio e hanno scoperto che il Porcellum è un sistema caotico. Cioè, quando i due schieramenti tendono ad avere un numero di voti simile, quindi la circostanza nella quale il premio di maggioranza serve, perché serve a far governare uno, in realtà il sistema diventa caotico e nel 30% dei casi fa vincere quello che ha perso. In un altro abbondante numero di casi indebolisce comunque il vincitore invece di rafforzarlo, proprio perché non funziona, insomma, è mal concepito. E se mi permetti per concludere, il fatto che il maiale, che è una colonna della nostra industria agroalimentare, sia definito caotico è veramente un insulto. Al maiale. Grazie, ciao. Ciao. Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. Milano chiama Washington. Federico, ci sei? Sono qua. Ecco, mi sembra il momento di dare la soluzione del nostro quiz. Tu hai avuto un'idea? No, completamente disorientato, mi sembrano possibili tutti e tre. Ecco, infatti, in realtà possibili non sono, perché due erano completamente inventate dalla fantasia della redazione, cioè non esiste un ombrello elettromagnetico che tiene lontani i fulmini e non esiste ovviamente un olio di ciliegia, ma soprattutto che si scioglie in acqua, perché sappiamo benissimo che è un grasso e quindi non può essere sciolto in acqua. Quindi la soluzione era la 2, cioè esiste una resina ecologica prodotta da una società di Lecce ed è estratta proprio dal guscio di anacardo, e di questa particolare ricerca ne parleremo approfonditamente settimana prossima. Devo dire che quella dell'ombrello mi creava effettivamente qualche dubbio, però era una speranza. E abbiamo una fantasia fervida in redazione. E ora, Federico, ti parlerei di una ricerca che se ne è parlato parecchio qua in Italia questa settimana, tu non ci sei stato, ma sembrerebbe che si sia aperto un nuovo giallo, il giallo di Van Gogh. E cosa succede? Allora, se fosse un libro noir, ecco, sarebbe appunto un giallo sulla vita dell'artista. Invece no, purtroppo, parliamo di pittura. Infatti un recente studio europeo ha scoperto che alcuni quadri del celebre artista stanno progressivamente perdendo un po' della loro brillantezza, in particolare il colore giallo. Una tragedia, direi. Una tragedia soprattutto, tu dirai, per i girasoli. Ecco, e infatti c'è un'equipe di ricercatori europei che sta studiando il fenomeno, è riuscita a capire quali siano le cause e ora vediamo che cosa si può fare. Ovviamente nell'equipe non poteva mancare una ricercatrice italiana, che stasera è qui nostra ospite, che ci aiuta appunto a capire che cosa sta succedendo a questi pigmenti di pittura e in che modo la tecnologia un po' può porre rimedio. È qui con noi Costanza Miliani. Buonasera Miliani. Buonasera a tutti. Dunque, lei è ricercatrice dell'Istituto di Scienze e Tecnologie Molecolari del CNR di Perugia e insomma ci deve spiegare che cosa sta succedendo e che tipo di studi avete fatto su questi dipinti, che specifichiamolo subito, non sono i girasoli come in alcuni giornali è stato scritto, giusto? Esatto. Il degrado che abbiamo studiato è analogo a quello che si sta osservando su alcuni dei girasoli, ma i dipinti nello specifico non sono i girasoli. Quali sono i dipinti che avete preso in esame? Sono lo studio della la Banca della Senna e Fiori di Arlè. Ok, e sono proprio così messi male? Beh, c'è un leggero imbrunimento che, diciamo, un occhio non esperto subito non osserverebbe, diciamo la verità. Però c'è un chiaro viraggio del giallo tipico vibrante di Van Gogh a una tonalità più scura, più marrone, che nel tempo potrà sicuramente peggiorare se non si mettono in atto delle condizioni conservative opportune. Abbiamo dei casi in cui si può fare un confronto diretto di quello che è successo, ad esempio per questo si parla dei girasoli, perché ce n'è una versione conservata alla National Gallery che è perfettamente ancora gialla, brillante, come dovrebbe essere, invece l'altra versione conservata ad Amsterdam, dove l'imbrunimento è chiaro. A quel punto, se li mettiamo a confronto, risulta immediatamente evidente che qualcosa sta succedendo. Ecco, perché queste differenze, dottoressa, soprattutto a seconda del luogo dove i quadri sono conservati? Sì, è quello che stiamo studiando adesso nella seconda fase del lavoro, che ovviamente è già attiva dopo le due pubblicazioni di cui avete sentito. Quello che può essere sia una diversa formulazione del pigmento, sia diverse condizioni conservative. Quindi stiamo valutando diverse forme di pigmento che abbiamo sintetizzato noi in laboratorio seguendo le antiche ricette del 1800, e stiamo anche valutando invecchiamenti accelerati in funzione di lunghezze d'onda di irradiamento diverse nel visibile e diverse temperature. Ecco, infatti, che tipo di analisi avete svolto su questi pigmenti? Avete prelevato un micro campione, giusto, dai dipinti, e l'avete analizzato come? Ovviamente in soldoni, se ce lo fa capire. Sì, esatto. Innanzitutto, dal punto di vista sperimentale, si è deciso prima di operare con dei modelli pittorici che riproducessero il pigmento originale nel suo ambiente, quindi con lo stesso tipo di legante che olio di lino. Quindi abbiamo usato dei tubetti antichi della stessa età di Van Gogh, diciamo, di un pittore coevo, abbiamo fatto delle stesure e abbiamo invecchiato queste stesure. Questo ci permette di avere una maggiore quantità di materiale da analizzare. Dopo aver capito qualcosa su questi modelli, siamo passati ai dipinti reali, dove vi potete immaginare il tipo di campionamento, la quantità di materiale che si può prelevare è piccolissima, certo. Quindi bisogna già avere messo a punto un sistema analitico opportuno. Le misure fatte sono misure di microspettroscopia Raman IR, dove si fa vedere la composizione molecolare, e poi la determinazione chiave, quella che ci ha permesso di capire tutto, è stato misure abbastanza sofisticate al sincrotrone di Grenoble, che permette di capire lo stato di ossidazione del cromo. Sembrerebbe che ci sia stato un fenomeno di ossidazione in questo cromo che dal giallo diventa bruno? È un fenomeno di riduzione, perché il cromo nel composto cromato di piombo ha uno stato di ossidazione 6 e poi è passato a uno stato di ossidazione 3, e nello stato di ossidazione 3 il cromo può assumere una serie di composti che possono essere l'ossido di cromo idrato, che è verde, acetati di cromo, ossalati di cromo. Quindi è chiaro il passaggio da cromo 6 a cromo 3. E questo tipo di reazioni possono avvenire per determinate cause, diciamo così, ambientali, maggiore umidità di un luogo rispetto ad un altro? Nei nostri test di invecchiamento accelerato abbiamo visto che avviene sia per irradiamento che per temperatura. E adesso quello che stiamo andando più sul fino e capire quali temperature permettono di non attivare questa reazione e quali tipologie di luce possono permettere di non attivare questa reazione. E dopo questo studio avete cominciato un po' ad ipotizzare quali potrebbero essere i rimedi da mettere in campo per poter difendere queste opere che hanno un valore veramente inestimabile? Sì, chiariamo subito che si potrebbe immaginare, ad esempio, di poter mettere in atto una reazione di ossidazione per tornare dal cromo 3 al cromo 6 e quindi tornare dalla colorazione marrone-verde a quella gialla. Questa potremmo farla, questa reazione, in un modello di laboratorio, è anche interessante ipotizzarla, però sarà molto difficile poterla applicare ad un dipinto reale di Van Gogh. Quindi quello che ci poniamo di fare realisticamente è di bloccare il processo, quindi non di tornare indietro al colore originale, ma di evitare che il processo vada ulteriormente avanti. avanti, che è una cosa già molto importante. E quindi, come dicevo, quello che si sta facendo è valutare se si riescono a trovare delle condizioni di illuminazione, di temperatura, che permettono di rallentare il più possibile la reazione di riduzione. Quindi stiamo facendo degli invecchiamenti in condizioni controllate e differenti, che poi andremo a confrontare per capire quali sono quelle migliori. Ecco, non ci può essere il rischio che questi quadri debbano stare in quarantena e non possano essere più esposti al pubblico, no? Ecco, questo si vuole evitare al massimo, perché ovviamente ci deve essere un compromesso ragionevole fra fruizione, perché altrimenti non avrebbe senso avere queste opere meravigliose se non possiamo goderne, e conservazione. Allora, dottoressa Mignani, ci tenga informati che noi di Mebius sì. Ci teniamo a questi temi. Grazie mille, buon lavoro davvero. Grazie a voi, arrivederci. Continuiamo, intanto vi ricordo che Federico Pedrocchi è sempre in collegamento con noi da Washington, ma prima di tornare da lui ci spostiamo in Sicilia e per la precisione a Palermo, dove si sta svolgendo in questi giorni il Festival della Chimica, di cui ci parla Barbara Gallavotti. Il 2011 è stato proclamato dalle Nazioni Unite Anno Internazionale della Chimica e a Palermo si festeggia con un Festival della Scienza che nell'edizione di quest'anno è dedicato proprio alla chimica. Si chiama Esperienza Insegna 2011 ed è in corso dal 19 al 28 febbraio. Si parla ovviamente di storia della chimica perché proprio a Palermo nel 1826 nacque uno dei padri della chimica moderna, Stanislao Cannizzaro. E naturalmente è anche un'occasione per parlare delle nuove frontiere della ricerca in chimica e per sfatare un po' dei luoghi comuni che la circondano. In particolare lo ha fatto al Festival Vittorio Maglia di Federchimica, che questa sera è qui con noi. Buonasera. Buonasera a lei e agli ascoltatori della mia radio preferita. Ma diciamo la verità, la chimica un po' ci sfugge. Da un lato, anche a scuola impariamo che tutto ciò che produce la natura è basato sulla chimica, l'acqua, noi stessi, il cibo, tutti gli organismi viventi. E poi invece ci sono i prodotti chimici, che sono qualcosa che viene prodotto dall'uomo in condizioni particolari, in laboratorio oppure in delle fabbriche. La scienza e l'industria chimica hanno in effetti questo problema, sono difficili, sono un po' misteriosi e di conseguenza creano facilmente diffidenza, soprattutto in un paese come l'Italia che ha scarsa cultura scientifica da un lato e cultura industriale dall'altro. La scienza chimica è difficile da imparare ma è anche difficile da insegnare, la stessa cosa vale per l'industria chimica perché l'industria chimica non produce i beni di consumo che noi utilizziamo quotidianamente. Produce beni intermedi, cioè quei beni che entrano nella produzione dei beni di consumo. Il risultato finale è che questi aspetti possono portare il cittadino, il consumatore, a pensare che si possa fare a meno della chimica. Ecco, quali sono questi prodotti finiti che non potrebbero esistere senza i prodotti intermedi? In tutti i prodotti c'è un po' di chimica, in tutti. In tantissimi prodotti ce n'è tantissima di chimica, ad esempio, non so, prendiamo un'automobile, nessuno potrebbe pensare che l'automobile è un prodotto chimico, ma se andiamo a vedere tutte le sue componenti, vediamo ad esempio, i pneumatici c'è tantissima chimica, le vernici per la carrozzeria, se andiamo a vedere l'airbag, l'airbag è fatto di plastica, di fibre, nylon e di gas, tutti e due sono prodotti chimici, ma poi se prendiamo la benzina ci sono gli additivi, per i freni ci sono i liquidi, tutti questi prodotti sono chimica, per cui un prodotto come l'automobile che nessuno collegherebbe alla chimica di fatto ha fino a 3.000 euro di prodotti chimici dentro, ma non solo l'automobile, non so, lo smartphone è fatto anch'esso di chimica, non solo di elettronica. Ecco, arriviamo a un po' dei luoghi comuni che voi avete sfatato in occasione di questo festival. Il primo, forse quello che più piaga, diciamo, l'immagine della chimica, è quello che sia pericolosa. È pericolosa la chimica? Innanzitutto, se noi siamo consapevoli del contributo della chimica alla qualità della vita attraverso i prodotti che rende possibile, allora noi possiamo anche affrontare il problema della pericolosità. Come? In tre modi. Il primo è questo, ricordiamoci che c'è una scienza chimica che innova continuamente e che negli ultimi decenni si è concentrata soprattutto nella ricerca di sostanze e prodotti a minor impatto ambientale, più sicuri per l'uomo e per l'ambiente. In secondo luogo ci sono le istituzioni che hanno introdotto e continuano a introdurre normative a livello europeo, a livello italiano, sempre più stringenti. Pensi che ce ne sono più di 1000 a livello italiano ed europeo. Normative che prevedono sempre un ampio margine di sicurezza. E in ultimo ci sono le imprese, con il loro impegno. Un impegno che non è di parole, fatto di investimento, di modelli organizzativi e soprattutto di tantissima formazione. L'industria chimica è uno dei settori dove si fa più formazione e i risultati sono evidenti. Noi abbiamo avuto 94% di riduzione delle emissioni negli ultimi 20 anni, 28% di riduzione dei consumi di energia per unità di prodotto. E una cosa che interessa molto adesso, che è il consumo di CO2, ogni unità di CO2 consumata dalla chimica determina un risparmio di 2,6 unità di CO2 nel settore a valle, proprio perché la chimica serve a risparmiare energia e CO2 nei settori utilizzatori. Grazie Vittorio Maglia, buonasera. Arrivederci. Purtroppo questa puntata speciale di Mebius è finita, mi dispiace un po', sai Federico. Abbiamo detto veramente tante cose, adesso io sto tornando e devo dire che abbiamo soltanto raccontato un terzo di quello che possiamo dirvi di questo grande meeting americano. Quindi tante altre cose, ma quindi allora torni per la prossima settimana. Torno. E allora settimana prossima, ciao Federico, buonasera a tutti. Arrivederci a tutti e ciao Chiara.